Buonasera e benvenuti a Nottetempo 7 Minutes, sono Livia Napolitano. La puntata di questa sera è un omaggio al grande musicista e compositore spagnolo Paco de Lucía, considerato non solo in Spagna uno dei più grandi virtuosi del flamenco. Lo faremo in compagnia di Isabel Chimeno, che vive in Italia da 2 anni ed è originaria della regione dell'Estremadura, nel sud-ovest della Spagna. Leggerà per noi una poesia di García Lorca. Per noi è morto il padre della chitarra in Spagna. La chitarra, Federico García Lorca. Empieza il pianto della chitarra. Incomincia il pianto della chitarra. Se rompen las copas della madrugada. Si rompono le coppe dell'alba. Empieza il pianto della chitarra. Incomincia il pianto della chitarra. È inutile callarla. È impossibile callarla. È inutile farla tacere. È impossibile farla tacere. Llora monotono come llora l'acqua. Come llora il vento sopra la nevada. Piange monotona come piange l'acqua. Come piange il vento sulla neve. È impossibile callarla. È impossibile farla tacere. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente che pide camelias blancas. Piange per cose lontane. Arena del caldo meridione che chiede camelie bianche. Llora flecha sin blanco la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Piange freccia senza bersaglio. La sera senza domani. E il primo uccello morto sul ramo. Oh chitarra. Corazón malherido por 5 spadas. Oh chitarra, cuore trafitto da 5 spade. E per concludere il nostro omaggio al maestro Paco de Lucía, ascolteremo un pezzo di flamenco rilasciato sotto licenza Creative Commons della banda di Mono Tití, Enel Olivares. Nottetempo 7 Minutes termina qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento la prossima settimana su Radio Libriamoci Web. Toda la mañana.